Icore. Siamo arrivati all'icone. Abbiamo pensato di mettere, di fare come Grindhouse, no? Che manca la Bobina bobina. mancante, sì. Esatto. È una bella trovata, eh. Sì. Tanto possiamo parlare di Predator, non è che stiamo a parlare. Poi, Io ho cioè, se visto c'è che qualcosa, film. diciamo, scusate, quando l'ha fatto Rodriguez, tutti a strapparsi le vesti, idolo, idolo, fenomeno, lo facciamo noi. Cioè, i cazzoni, ma che mi rappresenta, cioè? Dai, Monco, esplodi, su. Salve a tutti e benvenuti alla prima puntata di Le scene eliminate, ovvero l'opera minore dei cineplegici. Come ben sapete, Intrinseco stasera non c'è perché è partito per le vacanze, beato lui. E quindi siamo rimasti noi tre, ovvero io, il buon Monco. Ipikaye, motherfucker. E il E buon Darkman. sempre ottimo Darkman, che è invadente, che è al solito, che si mette in mezzo Sì. e dice un sacco di cose. E vabbè, partiamo subito con il primo argomento di oggi, che come ben sapete, se non lo sapete siete degli stronzi perché non mi leggete, quando dico le cose, manco mi ascoltate. Parleremo di Predators, ovvero il film recentemente uscito nelle sale. E non solo di Predator, Ah, io pensavo diciamolo, non ma solo nelle l'intera. sale perché l'hai visto masterizzato, però. No, non è per quello. Dico non solo di Predators, ma una puntata dedicata al genere action americano. Bravo, bravo, bravo. Sempre puntualizzazioni sempre ottime di Darkman. E, vabbè, partiamo subito quindi con questo Predators diretto da Nimrod Antal e prodotto Che è dal un Robert. grese. Sì, ha origini ungheresi, ho scoperto di essere nato a Ah. Hollywood. E è prodotto dal sempre mitico Robert Rodriguez, ovvero il regista di Planet Terror e del Dal tramonto all'alba. Allora, vabbè, partiamo subito in pompa magna. Darkman, che cosa ci dici di questo film? Parlacene un po'. Dico che è un film abbastanza brutto, però fondamentalmente si lascia vedere. Non offro nulla di nuovo al genere e soprattutto alla fine, cioè, a me personalmente non ha annoiato, però si annoia, cioè, lo capisco perché non succede quasi niente per tutto il tempo del film, a parte qualche scena, ma cioè, piuttosto evitabile. Sì, parliamo un po' della trama, insomma, ci sono questi umani, vari militari e personaggi armati assortiti che vengono catapultati su questo pianeta sconosciuto e scoprono di essere prede appunto di questi Predator, che sono dei cacciatori alieni. Che li braccano in tutte le maniere possibili e immaginabili. E alla fine se ne salverà soltanto uno. No, vabbè, comunque se ne salvano due o tre, insomma, così. Luca, invece, tu che ci racconti? L'hai visto il film? Sì, e l'ho catalogato sotto la voce film Cerino, cioè me ne sono già dimenticato, sono solo passati 10 giorni, eppure ricordo ben poco del film. Beh, l'idea per questo reboot più che altro, più che un sequel, si tratta di reboot, visto che Rodriguez vorrebbe fare una serie o addirittura una trilogia. L'idea di base è carina. Questi umani gettati sul pianeta dei Predators che ancora non conosciamo assolutamente, dopo 23 anni, non sappiamo perché sia venuto sulla Terra il primo, almeno io non ho visto il secondo Predator, però non credo che lo dicano. Non sappiamo se questa, come vivono, cosa fanno e tutto il resto. Vabbè, non è che sia così importante, però prima o poi dovranno dirlo. E Nel comunque quest'idea è secondo si intuisce che c'è una gerarchia, c'è una cerimonia di iniziazione comunque, come si intuiva anche in Alien contro Predator, però non viene spiegato nient'altro, insomma, nel secondo. però questo fatto della spiegazione è un grosso problema perché io non vorrei che poi nel sequel fanno tutto un film che punta alla spiegazione, cioè un Il film film noioso, spiegone, come ha detto il Monco. ancora più del primo che sarebbe soltanto a spiegare, cioè, quello che fanno i Predator e poi finisce così, cioè peggio del primo a questo punto, cioè, peggio nel senso peggio di Predators. verrebbe fuori. Quindi sì, spiegastro, ma con criterio, cioè, no? Non fanno un film solo sulle spiegazioni. Beh, hanno detto che faranno qualcosa tipo bigger and better di questo Predators, quindi non lo so che cosa ne uscirà. Comunque, io personalmente lo aspetto un sequel, perché fondamentalmente questo Predators non mi ha annoiato, non ho sentito il peso del ritmo, anche perché non me l'aspettavo che sarebbe stato comunque un film dal ritmo molto simile a quello del film dell'87, e il personaggio comunque mi affascina sempre, amo Predator, quindi più ne vedo sullo schermo e meglio è, insomma. E quindi che cosa non funziona di questo reboot, secondo voi? Sicuramente il difetto più grosso è relativo ai personaggi che non esistono, cioè se nel primo comunque sono delle macchiette, sono dei personaggi grandi, grossi e cattivi, senza cervello, questi mercenari qua. In questo Predator se non esistono, se mettevano delle sagome di cartone non cambiava nulla. C'è il tizio della Yakuza che non fa nulla per tutto il film, poi fa il suo combattimento con la spada. E finisce proprio insipido al massimo. E ne avevo letto invece Ah, che. e Dimmi, ovviamente anche cioè, più che la mancanza di Schwarzenegger, Brody al suo posto che non si può vedere, cioè, ma non per, col cioè, per colpa sua, proprio non è adatto al tipo di film, a fare quel tipo di personaggio dell'eroe cattivo, no? Non gli si addice per niente. a me l'idea è anche piaciuta, cioè su carta è molto carina l'idea. Umani prelevati a caso, addormentati, presi, alcuni militari super forzuti, altri normali civili, vengono buttati su questo pianeta come giocattolo per i Predators. Però io l'avrei buttata più sul videogiocoso o sul tipo Death Race. Avrei preso questo pianeta dei Predators, riempito di telecamere e fatto tipo un game show, un reality. Da casa si poteva scommettere su chi degli umani avrebbe resistito, o il primo che moriva, renderlo molto più divertente, più stupido. Invece così è molto più serio e Si ha prende quelle parti molto sul scientifiche. serio, infatti, questo film, inutilmente, tra l'altro. Quelle parti Anche i centrali, protagonisti, Loth. insomma, sono abbastanza seriosi, abbastanza privi di autoironia. A Come voi stai dicendo tu, domanderebbe. la parte centrale, da quando comunque si incontra Lawrence Fishburne, un pessimo Lawrence Fishburne, precipita totalmente in un no sense involontario e tutto quanto. Ah, io vorrei quella parte lì. Levate Fishburne, fate vedere il gruppetto dei nostri che arriva a questa loro base e trova una piccola stanza che c'è, si scopre che qualcuno è stato lì, umano, e ha trovato un po' di armi. Poi li fate uscire, qualche piccolo combattimento, e si arriva alla parte dove Lawrence Fishburne non c'è più. Ok, non c'era Fishburne, ha funzionato lo stesso e sarebbe stata molto più interessante e molto più veloce. Fishburne rallenta. Ed è messo lì solo perché molto probabilmente, visto che c'è anche in un altro film di Antal, sono amici e gli ha detto: guarda, io ti chiamo per questo Predators, fammi una piccola parte, e boom. Ma se lo levava, ci avrebbe guadagnato molto il film. L'altro film che è, ricordiamo, blindato, Armored, che io ho visto e sinceramente non è neanche male, però vabbè, niente di che. Forse questo è il problema, che blindato mi sembra che sia molto cacciarone, no? Non è, fondamentalmente non è nemmeno un action in tutto e per tutto, è un poliziesco thriller con elementi d'azione, però la storia è questa: ci sono queste guardie di un blindato, insomma, di un'agenzia che si occupa della gestione del trasporto di soldi tra una banca e l'altra, insomma, no? E questi 3-4, questa pattuglia, insomma, questi 3-4, queste 3-4 guardie decidono di rubare il malloppone, e uno di loro si oppone e rimane in questo blindato, con tutti loro fuori che cercano di aprirlo, comunque di accavarrarsi questa somma di denaro. E non è più Il ritmo caciarone, com'è? però sì, il ritmo comunque è sostenuto, questo sì. Non è caciaronissimo, però comunque c'è una buona tensione, c'è un buon ritmo, non è malissimo. Ma forse quello è il problema di Predators, è che Antal non sa fare un film con quel tipo di ritmo, visto che ha voluto quasi copiare il ritmo del primo, non ci è riuscito per niente, rendendolo più noioso, mentre il primo, anche se è pacato, tiene attento lo spettatore. Certo. No, una cosa che hai detto tu a cui voglio ricollegare è il fatto che il personaggio di Laurence Fishburne si nasce e si esaurisce nello spazio di pochi minuti. È un po' un vizio di moltissimi elementi di questo Predators. Oltre al già citato Fishburne, c'è anche nel finale il colpo di scena di Topher Grace, che vede un personaggio che nasce e muore nello spazio di 30 secondi e non porta a niente, ma anche ad esempio l'introduzione di questa nuova tribù di Predators che è in guerra con la tribù del Predator che conosciamo da sempre. Elementi che non funzionano e che nell'economia del film, ma più in generale anche della saga, non servono a niente. Ecco, io per esempio, sempre levando questo colpo di scena, spoiler, spoiler, spoiler, mettiamo che Topher Grace non è per niente cattivo, che è uno di loro. Allora c'è lo scontro tra il Predators buono, così per dire, e il Predators cattivo. Questi se corchiano, rimane messo meglio, quello cattivo fa esplodere la navicella con cui potevano scappare i nostri umani. Sembra finita, invece quello più bravo riesce a ammazzarlo, si ammazzano tra di loro e così arriva il finale che è uguale identico, senza mettere quel colpo di scena terribile di Topher Grace. Pienamente d'accordo, poteva essere fatto veramente in una maniera diversa questo film, però come hai detto tu, si è voluto copiare il film originale dell'87, soprattutto nella prima parte, e è stato evidente comunque che Antal non è capace di gestire questo tipo di ritmo, forse anche perché frenato un po' dal fatto che ci fosse una figura abbastanza opprimente in cabina di produzione come Rodriguez, non lo so. Ma il regista per il secondo è confermato? Cioè sempre lui o potrebbe cambiare? Nel secondo si sa solo che Rodriguez ha detto al Comic Con che si farà e per il momento ancora non se ne sa niente, quindi può darsi di sì come può darsi di no. Cioè, dalle parole di Rodriguez sembra quasi che voglia dirigerlo lui, perché non lo so, sembra abbastanza entusiasta sia dei risultati di Predators che in generale della prospettiva di fare un sequel. Non vorrei che Antal sia un po' trattenuto per via del fatto che Rodriguez gli ha detto questo primo capitolo sarà solo di introduzione, quindi prendiamocela comoda. Facciamo solo proprio una semplicissima introduzione dal secondo in poi, come diceva Bigger and Better, quindi faremo di tutto e di più, però per il primo teniamoci i cani. E allora Antal ha esagerato in senso negativo, cioè ha proprio rallentato tutto. E l'ha reso quasi un polpettone. Forse Sì, ma si è non è sentito un quello l'unico po' difetto, legato. cioè forse è solo per quello alla fine, cioè, è uno dei tanti problemi del film. Ad esempio, neanche i personaggi funzionano per niente bene. È Sono delle proprio macchiette che non il hanno. casting, i Sì. personaggi, cioè ce ne stanno dei problemi, quello è sicuramente uno. Il fatto che comunque manca tutta la tensione che nel primo era un po' una colonna Attenzione. portante del film. Non tanto perché sappiamo chi sono i Predator, eccetera, eccetera, semplicemente perché non puoi realizzare un film su una caccia all'uomo dove gli uomini precedono il loro aguzzino. Cioè, è una cosa che non funziona semplicemente che questi personaggi riescano ad anticipare i loro predatori. Ma soprattutto c'è questo gruppo che sì, sarà anche eterogeneo, ma nessuno dei personaggi, innanzitutto nessun attore funziona nei panni del proprio personaggio, ma poi non si creano delle dinamiche di gruppo che erano un elemento fondamentale del precedente film, insomma, di quello dell'87. Perché poi il Predators è un personaggio che bisogna trattare perché è virtualmente invincibile, è invisibile, ha delle mosse, ha una velocità incredibile e delle armi potentissime. Se ti lascia vivo è perché vuole giocare con te. È molto sportivo il Predators e Antal non l'ha assolutamente capito. Cioè, lui ha pensato, ok, c'è il Predator, ci sono questi umani, ma alla fine dovrebbero riuscire a salvarsi. Da lì ci ha costruito in mezzo una storia che non è assolutamente credibile, appunto perché gli umani sembrano troppo intelligenti. Poi se pensiamo anche che giocano sul loro campo, cioè siamo sul loro pianeta, eppure l'uomo è messo molto meglio. Sembra una bella cazzata, insomma. Certo. E, non so, secondo me qual era un elemento che, cioè, o meglio, gli elementi che rendevano che hanno reso il film dell'87 un capolavoro del genere action? Non so, Darkman, dai, inizia tu. La presenza di Schwarzenegger prima di tutto, sicuramente, che in ogni film comunque in cui ha partecipato ha lasciato la sua impronta. Poi la tensione, come hai già detto tu, cioè il ritmo che il film ha. E poi una cosa che mi è piaciuta molto a me del primo Predator è quando ovviamente arrivati alla fine, verso la fine, e poi dura parecchio lo scontro tra Schwarzenegger e il Predator, tipo 20 minuti buoni, anche di più. E quando rimangono soli, e mi è piaciuto lo scambio che c'è praticamente quando rimangono solo loro due, cioè Schwarzenegger praticamente diventa il predatore, cioè c'è proprio lo scambio di ruolo. Si vede una scena in cui mentre lui si prepara per cercare di combattere il predatore, costruisce le trappole, che poi una cosa che mi è piaciuta è che si vede sempre come le costruisce, c'è un momento importante, la costruzione delle trappole, tutto, mentre qui in questo sequel quasi per niente, Sì, a me quella e parte di niente. Schwarzenegger che dicevi mi ha ricordato Mamma ho perso l'aereo, che riusciva, ti fa vedere tutte le trappole che costruisce, veramente uguale. Sì, ok, Ecco, ho comunque detto nulla, quindi Mamma ho c'è. perso l'aereo. Sei riuscito a citarlo nel nostro podcast alla grande, insomma. Sarei stato contento se Adrian Brody avesse detto una bella battuta. Immaginatevi la scena. Brody col fucile riesce a scappare da un attacco potentissimo di un Predator, si rintana dietro un albero e dice: Ammazza, sono scappato dai tedeschi e mo' mi attacca pure i Predators, i mortacci. Ecco, quello sarebbe stato molto meglio. Non basta che il film sia un po' una mezza cagata, insomma, ci voleva pure questo, insomma. Sì, poi tirava fuori da dietro una pianola e faceva il pianista anche lì, non lo so, capito? No, Divertente. comunque, bravissimo McTiernan nel primo film a costruire questa tensione attorno a questa creatura ignota, comunque. Una parentesi, non capisco perché l'unico personaggio, sempre una macchietta, però teoricamente interessante come quello del messicano Danny Trejo, l'hanno fatto morire subito, cioè dopo 10 minuti di film e muore. Cioè, non capisco perché, c'è cioè, un personaggio che può essere forse interessante e lo fai morire subito, vabbè. Chiusa Perché parentesi. Trejo è sempre così. Trejo è una Sì, è comparsa. vero, lo so, però non, cioè, Lo so, ma guarda che tienilo. quello è una cosa che tutti vorrebbero. Più Trejo nei film. Eppure, Più Trejo per tutti. sì, più Trejo per tutti, no, davvero. Però è quello, il suo ruolo è quello di essere lì, essere ricordato e poi sparire. Quei 5 minuti lui si riprende sempre. Ruba la scena a chiunque. Il fatto è che comunque il personaggio che interpreta qua in Predator non è, non lo so, cioè, a parte che è l'apoteosi del cliché, insomma, il messicano che è un po' loco, però è anche vecchio e Craig. dispensa ogni tanto le perle, insomma, però proprio, boh. Ma non funziona niente dal punto di vista dei personaggi in Predators comunque, quindi c'è. Cioè, chiedersi se sarebbe andata meglio o peggio in determinate situazioni non mi sembra pure No, beh, abbastanza certo, non inutile, avrebbe insomma. salvato il film, Sì. però. Ma vabbè, ma lui doveva lavorare altre cose. Sembra che sia stata tipo una comparsata a richiesta di Rodriguez, insomma, niente di particolare. Di. Spezziamo un'arancia a favore di Brody. Cioè, già Antal, già Rodriguez, già che ha fatto il cast, doveva capire dal primo giorno, ma anche dal primo secondo, che Brody non doveva fare quel film, non deve fare action, perché non è capace. Insomma, lui è un attore drammatico, allora stia fuori da questo genere di film. What the hell are you? Abbiamo parlato di Predators, che è uscito ormai da 2 settimane nelle sale italiane, e tra 2 settimane uscirà nelle sale americane l'ultima fatica di Sylvester Stallone, cioè The Expendables, che in Italia la vedremo molto più tardi, quando l'estate sarà già finita, cioè il 3 settembre. Expendables, di cui non è solo regista, ma anche sceneggiatore e interprete, diciamo, principale, Stallone. È una, si può dire, una rimpatriata sia tra vecchie glorie dell'action, quindi ci sarà Schwarzenegger, Stallone, Rourke, che è un po' il ponte tra il vecchio e il nuovo, e tra le nuove, tra cui vediamo il mitico Statham e Jet Li. Ah, poi anche sì, Dolph Lundgren tra i miti del passato. Che ne pensate di questa rimpatriata più che altro? Io lo aspetto con dilazione, innanzitutto perché mi sembra sia proprio una summa del genere tutto. Ci stanno dentro icone vecchie e nuove, cattivoni, visto dai trailer abbastanza esplosioni, insomma, lo aspetto con un'aspettativa abbastanza alta. Poi, insomma, Stallone non è nuovo al genere, quindi sicuramente saprà come gestire sceneggiature e tutto quanto, insomma, mi fido abbastanza di questo film. Poi vabbè, comunque mi sembra che ci sia il meglio delle icone, comunque, cioè, anche i piccoli camei di Willis e di Schwarzenegger. Cioè, come abbiamo detto, Stallone, e poi comunque c'è, secondo me, la nuova star più importante che è Statham, insomma. Io invece però per niente lo aspetto sinceramente, anzi tra quelli che tra gli action in uscita è quello che aspetto di meno. Proprio perché c'è Stallone, protagonista, che a me personalmente non piace, e poi comunque Schwarzenegger e Willis faranno delle piccole parti. Schwarzenegger sicuramente penso farà solo un cameo di pochi minuti, penso. Willis non lo so, ma anche lui avrà una parte minore. E non sono neanche a differenza di qui presenti Luca e Alessandro, fan delle nuove promesse, diciamo, Statham e compagnia. E mi dispiace anche, sinceramente, dato che c'è Steve Austin, io avrei voluto anche The Rock. Non capisco perché mai The Rock, allora qui avremmo avuto Steve Austin contro The Rock pure al cinema, cioè sarebbe stato, allora a quel punto il film mi sarebbe interessato particolarmente. Non capisco, invece l'hanno relegato a fare la fatina dei denti. Vabbè, speriamo che torna presto al genere action pure lui, a dove anche lui non è che può fare molto altro al cinema. Io volevo ricordare che tra 2 settimane Darkman partirà con un aereo per Los Angeles e andrà a dire in faccia a Stallone che non gli piace, e noi saremo lì presenti sul posto quando succederà. Io invece sono un gran fan di Stallone, ma anche di Jet Li, di queste nuove icone. Volevo raccontare un bel episodio che riguarda Expendables, cioè che Stallone, quanti anni ha ormai Sulla Stallone? sessantina? 50? Ah, no, penso pure di più. Aspetta, che ci informiamo immediatamente. È Nato del era nato 50 46, quasi. quindi c'ha 54, 64. 64 anni, sì. È a 64. Sì. È nato il giorno, è Madonna. nato lo stesso giorno mio addirittura, ti rendi Il? conto? Il 6 luglio è Ah, andato, è stesso giorno assurdo. tuo. Sì. Vedi, vedi? Questo attore di 64 anni che ancora si mette a fare gli action come fosse un ragazzino, e in una scena doveva fare una lotta contro Steve Austin, che è il suo rivale nel film, e gli dice: sì, fammi pure cadere, che io sono capace, faccio da una vita, stai tranquillo. Austin fa la mossa, lui cade e si è spaccato l'osso del collo. Tutto vero, non è una manovra commerciale. Stallone è andato da Letterman e ha fatto vedere la lastra, che adesso ha due placche, due pezzi di osso e metallo che gli tengono ferma, mi sembra, la carotide o insomma le vertebre anche dietro. Madonna mia. E quindi, No, non si scherza con Steve Austin. no, appunto, Steve Austin è cattivo non per finta, è proprio veramente È una cattivo. persona cattiva, sì. Poi Stallone, che è il duro della situazione, ha descritto Randy Couture, che nel film dovrebbe essere tra i cattivi, che nella realtà è un campione Sì, micidiale di MMA, kickboxing. la mixed martial arts. Sì, mixata Sì. lì. Come una bestia che ha distrutto due o tre comparse, perché lui non riesce a controllare la sua potenza e Stallone aveva davvero paura, perché tutti gli altri sono attori che più o meno si sanno controllare, sanno fin dove possono spingere e Couture non è assolutamente capace e ha distrutto di brutto tutti gli attori. I vari Statham, Jet Li, a fine giornata, a fine riprese, dovevano stare col ghiaccio addosso tutto il giorno perché li distruggeva Tra totalmente. l'altro, questo mi ha ricordato pure alcune vicende legali di Van Damme, che addirittura uno stuntman gli fece causa perché in una scena con un coltello gli aveva fatto perdere l'occhio, tipo. Sullo stesso set di quel film, che adesso sinceramente non mi ricordo, cerco un attimo, insomma, c'erano comunque le comparse che dicevano che Van Damme appositamente non si tratteneva per rendere le scene comunque più realistiche. E poi Van Damme comunque uno che ha Sì, rifiutato un ruolo in The Expendables. Tra l'altro c'è stato adesso il Comic-Con con rifiutato. Stallone, che l'ha accusato di follia e di non mi ricordo di quale altre cose, insomma, gli ha detto di peste e corna, insomma, per non aver accettato quel ruolo. Ha rifiutato anche Jackie Chan, che ha avuto delle divergenze con Stallone. Ha rifiutato Seagal per lo stesso motivo. Ha rifiutato Kurt Russell perché non vuole far più parte dell'action, no? E Wesley Snipes, vabbè, è in galera. E da segnalare che nel film non c'è scritto, ma è l'ultimo ruolo vivente di Brittany Murphy, se non sbaglio. Sì. E quindi anche questo è Comunque insomma è in lavorazione da un l'unico sacco di motivo. tempo, insomma, perché è morta quando? In Brittany Murphy, parecchio tempo fa, meno l'anno scorso, insomma. E poi nel film c'è anche Terry Crews, che l'abbiamo già visto in un action, cioè Gamer, Gamer sì. di Neville Dean Taylor, che è un attore di colore che è molto simpatico. Adesso vorrei vederlo in un ruolo da duro vero. Mi fa sempre ridere vederlo. Vedremo qui com'è. Anche perché Magari gli faranno fare ha anche fatto film qualche simpatici. commedia pure con i Wayans, mi sembra, no? Esatto, Sì, Wild sì, White Chicks. Chicks, sì. È un po' atipico, diciamo, al genere. Dopo The Gamer, che è il primo Sì, ruolo il fisico ce l'ha, action, è diciamo. mostruoso, Sì. basta vederlo in The Gamer che è assurdo, però fa sempre un po' ridere a vederlo per il suo passato. E poi c'è l'altro pagliaccio della situazione che è Mickey Rourke, ma lui Sì. dopo aver fatto Whiplash in Iron Man, che ruolo, e qui però sarà ai Vabbè. margini della storia perché mi sembra che sia un meccanico, qualcosa di Sì. Ho simile, un esperto, qualcosa, visto quindi tipo che non fa i c'è la sua tatuaggi lui, personalità. però non so se non penso sia quello il suo ruolo nel film, insomma. No, è un commerciante d'armi amico di lunga data di Stallone, quindi sarà proprio marginale. Ci sarà, ma. Gli attori più interessanti fanno ruoli marginali in questo film. Ma no, c'è Statham che è un protagonista, perché? Apposta. No, che ha, ma se è un profano, non adori Statham, ma se... Bah. Allora, a me mi è anche piaciuto Crackdown, però non. Boh, Crackdown. non so. Sì, Crackdown. Scusa, non so se... il videogioco, no? Volevo dire come si Crank. chiama. Crank, Crank. certo perché ho detto Crackdown, sì. Crank, è anche piaciuto. Però lui, boh, sarà Quello pelato, quale. ormai tutti con questa pelata vanno, se uno ve sta reaction, cioè, boh, non lo so. Vabbè. Due considerazioni su Expandables e Statham, e quindi sui personaggi. Non vorrei che Stallone, voi parlate di sceneggiatura o comunque storia che sembra interessante, non vorrei che fosse solo un motivo per far vedere tutti loro insieme. Ma comunque il protagonista è Stallone, quindi c'è Stallone, ogni tanto passa la palla a Statham, ogni tanto c'è Jet Li, ogni tanto questo, solo per accontentare tutti. E non vorrei che diventasse una cozzaglia di roba. Spero che sia scritto bene. È molto, molto probabile, secondo me, che Quella è la mia sarà. paura. Io lo aspetto, però, insomma. E poi Statham, ecco. Allora, io soffrocio per Statham. Basta vederlo in due film, Death Race, dove vabbè, mena poco, però quando mena fa vedere che ha un fisico che può spaccare di tutto. e il primo Expandables, dove è diretto da Cory Yuen, che è un esperto Primo di geografia Transporter, ottima. scusa, hai detto Expandables. Ah, sì, Primo scusa, il primo Transporter. Transporter. Dove lui ha quel fisico che non dovrebbe sulla carta riuscire a fare quelle coreografie di arti marziali che riesce a fare, perché ha un'agilità impressionante per tutto il film. È assurdo, è come vedere, è come il bombo che riesce a volare. Il bombo non dovrebbe. Per la sua fisica, per il suo fisico non dovrebbe, invece ci riesce. Statham è uguale, ha un fisico troppo grosso, eppure ha una velocità incredibile. Per esempio, Stallone ha un fisico simile, ma non riuscirebbe mai a muoversi come lui. Quindi Statham è a un Oddio, livello. sinceramente Statham mi sembra un po' più asciutto di Schwarzenegger No, ma dico comunque. come. O di Stallone. Vabbè, il primo Stallone allora, quello di Di prima di Rocky? Rocky Sì. 4, dove. Da Rocky 4 in poi sembra strapompato, ma perché lì ormai è invecchiato e deve tenere sul fisico. Ma i primi Rocky ha proprio il fisico da pugile da bar, insomma, non è neanche. Insomma, Statham riesce a coniugare il fisico e la potenza di uno Stallone con la velocità e l'agilità di un Jet Li. Quindi Statham è il lottatore Beh, lui perfetto. E comunque lasciatemi lui stare. è armonioso perché comunque ha un passato da atleta della nazionale inglese di tuffi, addirittura. Ma in più in generale comunque anche un esperto di kickboxing e di mixed martial arts, quello È un fenomeno, abbiamo capito, lo che... amiamo Sì, no, tutti. il fatto è che comunque a me sembra che sia il prototipo di icona action moderna, nel senso che riesce ad unire comunque... Ha comunque un carisma alla Bruce Willis e riesce a unire un'agilità, non dico alla Van Damme, ma ci si avvicina comunque tanto. Cioè, in Transporter comunque, come hai detto tu, vola. È una cosa impressionante. Comunque stavo Sì. dicendo che personalmente, perché stavo rivedendo la sua cinematografia adesso, Snatch di Carici, no? Ad esempio, in cui non fa comunque fa una parte molto abbastanza autoironica e non è il classico, sì, fa anche lui la parte del duro, non mi ricordo neanche bene poi completamente il ruolo, però lo preferisco, già cioè, non mi, a me neanche mi dispiace come attore, però non, a differenza di voi. Non come icona action, cioè lo preferisco in altri ruoli, sempre raramente relativa all'ambito action, però non, cioè non Ah, mi pure, lo Snatch comunque vedo è un molto più derivato del genere ironico, action, eh. perfetto, dico, sempre in, però non come il classico prototipo dell'eroe duro protagonista, cioè lo vedo molto più come personaggio ironico, cioè anche perché mi pare che sia no, mi pare anche abbastanza ironico e autoironico. Quindi non ce lo vedo come, cioè lo preferisco in un ruolo più meno duro, cattivo, ma più Beh, il fatto è autoironico. questo, è che non è che una cosa esclude l'altra, cioè l'icona action comunque è autoironica, lo è stato Schwarzenegger, lo è stato Willis e lo è Statham, insomma, non è... Lui ha interpretato ruoli da So. duro e secondo me l'ha interpretato anche abbastanza bene, sia in Crank che, come abbiamo detto già, in Transporter, ma anche in Death Race, in Snatch. Come duro funziona discretamente bene, è autoironico, sta bene con una pistola in mano e sa combattere, cioè più di questo che deve un'icona action. E poi questa Expandable sarà la prova del 9, perché lui è sempre stato di solito da solo su schermo, non c'era mai. Cioè, credo che il massimo rivale che ha avuto è stato il figlio di Gasman in Transporter No, 2. in Italian Quindi. Job c'era anche Mark Wahlberg. E beh, In che? in Italian Job. Vabbè, Vabbè, ma non era un action. oddio, come Vabbè, ma lui non menava, non mi sembra, non lo ricordo bene. Guidava Guidava la bene, macchina. insomma. Appunto, no, vabbè, io intendo lui. Ma lui Che sa fa anche uno guidare bene, scudo. come guida Statham, non guida nessuno. Sì, ma infatti è vero. Appunto, Statham fa di tutto. Ma questo sarà, insomma, lui con Stallone, Jet Li e gli altri, vedere se riesce a stare all'altezza degli altri. Poi vedremo che ruolo gli dà Stallone. Se gli fa fare la comparsa, allora. All'inizio, mentre andavo nelle Ardenne, vidi un uomo e sette donne. Li ha visti, non andavano da nessuna parte. E che facevano? E che ne so, stavano seduti. Ma che cazzo ne so cosa Ma allora chi è facevano là? andato nelle Ardenne? Lo stronzone, solo lui. Vabbè, insomma, abbiamo capito che è un cinema di attori e di star, però non meriterebbero più fama anche i registi, secondo voi? Dicevo che il problema era quello, che il fatto che è un cinema di star e attori e c'è questa sorta di divismo verso questo tipo di cinema molto mascolino, molto omosessuale per certi versi, che comunque toglie spazio, anche perché comunque buoni cioè, un buon numero di questi film non sono cioè, dei gran capolavori, si reggono soprattutto proprio sulle, cioè, su Schwarzenegger, su Stallone, su Willis, alla fine è quello che regge il film. E quindi poi metti anche il fatto che molte volte quando fanno 200 sequel, il primo è di un regista, l'altro è di un altro regista e tutto il resto alla fine cioè, si perde proprio l'importanza del regista davanti allo spettatore, cioè lo spettatore proprio non lo considera minimamente, anche perché il tipo di spettatore che guarda principalmente questo film non è che si interessi molto al regista, solitamente. E noi che cerchiamo di Punto. guardarlo con uno sguardo un po' più approfondito. Ma anche perché è difficile fare sentire la mano del regista in questo genere di film. Non puoi innovare tantissimo o fare chissà che scelte stilistiche. Gli unici mi sembra che siano Neville Dean e Taylor, gli autori di Crank e Gamer, che hanno quasi inventato un nuovo modo di fare gli action, ma anche quello di Hot Fuzz, Wright, Right, Edward se Wright, non sì. sbaglio. Non ci sono mai stati grandi registi per l'action, a parte McTiernan che, vabbè, lui è l'action quasi, l'action di classe. L'unica saga che sembra aver avuto una buona scelta di registi è Mission Impossible, con De Palma, John Woo e come si Abram, chiama J.J. quello? Abrams. Nuovo Spielberg. Abrams. Nuovo No, Spielberg. Spielberg. Sì, assolutamente. Quel ragazzo con gli occhiali lì. Non imparo neanche il suo nome perché tanto tra qualche anno sarà già sparito, quindi cosa imparo? Cosa memorizzo? E questa è una saga che insomma fa capire che anche se ci metti dei buoni registi, il risultato alla fine è quello. O hai un buon action tipo Commando, perfetto, però il regista chi cazzo è? Nessuno. Oppure metti De Palma che sì, ti fa un buon lavoro con Mission Impossible, però insomma, quel tipo di lavoro lo può fare chiunque. Quindi non credo che il regista sia così importante nell'action, però forse te la pensi in modo diverso. Ma Te, forse Alex. nell'action, aspetta una piccola parentesi, poi parli tu. Nell'action americano, sicuramente, cioè, rimaniamo comunque sempre nel suolo americano. Non ha importanza il regista, soprattutto, cioè, non ha una grande importanza sull'action di questo tipo di action, ecco. Beh, sì, è vero che Wu e Johnny To hanno il loro stile al di là dell'attore. Per esempio, cioè, nei film di Wu è importante lui, poi ci puoi mettere che cazzo ti pare come attore. È agli antipodi degli Stati Uniti. Certo, infatti, quello che ti volevo dire riguardo il discorso Mission Impossible, forse quello più personale, dove siete maggiormente lo stile, forse è proprio il secondo, che siete un po' più pesante la mano di John Woo. E, no, io senso, alla fine la penso più o meno come te, ci sono tanti buoni mestieranti che si cimentano col genere action. Adesso abbiamo avuto gli esempi di Wright, del duo Neville Dean e Taylor, che ci hanno dimostrato che comunque si può fare anche un film di stile action. Il fatto è che comunque le cose migliori del cinema action, secondo me, provengono dal sottobosco, diciamo, dal budget minore, dal film più piccolo. Infatti, Crank, comunque, Hot Fuzz. Questi film così sono stati fatti veramente con pochi milioni di dollari, insomma, rispetto alle grandi produzioni blockbuster. E il fatto è che moltissimi di questi registi di film minori avrebbero moltissimo da insegnare in quanto a ritmo e a pura tecnica a registi più blasonati, come ad esempio, non lo so, dico Michael Bay e Emmerich, ad esempio, no? Ad esempio, Sì, Neville ma Dean e Taylor dovrebbero fare un seminario sulla macchina da presa a mano a Bay, perché cioè, in Transformers non si capisce un cazzo, mentre invece, ad esempio, in Crank 2, la telecamera a mano è, ma anche in The Gamer, la telecamera a mano forse è la cosa più riuscita proprio. Riesce a comunicare veramente frenesia e ritmo forsennato, cosa che invece non accade in Transformers, insomma. in assenza di grandi budget deve riempire con le idee, quindi Neville Dean e Taylor sono riusciti, Bay dice, vabbè, ma perché devo scrivere e scrivere quando posso riempire almeno 10 minuti di esplosioni? Certo. Facciamo così, i soldi ce li ho. Amen. Forse la mano Però credo che... del regista nel cinema americano è venuta meno soprattutto per il fatto che è un cinema molto commerciale. E McTiernan ha tracciato la via, diciamo, e tutti hanno andato tutto verso l'omologazione, insomma, non c'è stata una diversificazione come per altre cinematografie. Beh, si può parlare di... che fanno sentire la loro mano Carpenter e... come si chiama quello che ha vinto l'Oscar per Titanic? Cameron, Oddio, Cameron, dimmi. Cameron. Cameron e Sì. Carpenter. Sì, ma Cameron c'ha la Che... mano, cioè fa sentire la sua mano che non è vuoto, cioè il vuoto interiore, beh, almeno personalmente. Sì, Comunque. però io ritengo i primi due Terminator almeno un po' autoriali. Cioè comunque un suo lavoro. Non è solo esplosioni e Schwarzenegger che fa di tutto, c'è un bel lavoro Anche True dietro. Lies, ad esempio. Ah, eh sì, anche. Ok. Oh, vabbè, invece Aliens no. Aliens è il classico film coi Marines. Ecco, però anche Quello lo lasciamo Aliens, ad perdere. esempio, no? Ha avuto comunque il coraggio di distaccarsi dal cinema di Scott, che era completamente diverso. Quindi, in ogni caso, ha dato comunque la sua impronta al film. Vabbè, sì, Quindi, sì. giusto, giusto. Aliens, la saga di Alien, ogni regista ha dato la sua mano. Tutti e quattro gli Alien sono quasi staccati, per stile. Certo. Abbiamo parlato pure nella prima puntata di Fincher, mi sembra, sì. Mi sembra di ricordare male. Sì. Vabbè, comunque passiamo da questo discorso a un discorso che ci porterà a spargere sangue qua e là per tutta la nostra casa, insomma. Parliamo del fatto che ce l'abbiamo un po' con la critica che sembra quasi divertirsi a massacrare questi film. Tu, Luca, che ne pensi innanzitutto su questo argomento, sull'argomento critica contro film action? Che vogliono fare i sopraffini, gli snob con un genere che andrebbe preso con una critica un po' diversa dagli altri. Insomma, siamo davanti a un genere che deve far divertire, non deve per forza essere logico al 100%, e quindi lasciamo stare, ci sono dei piccoli errori, passiamoci sopra, diverte, intrattiene, va benissimo. Un po' È come inutile star Darkman, lì insomma, a... fanno i raffinati con questi film, insomma. Sì, infatti. Stiamo a guardare la recitazione in questi film, no, non cogliamo in pieno. E poi non riescono neanche a riconoscere le innovazioni, tipo appunto Neville Dean e Taylor, che riescono a usare un montaggio così particolare, così interessante, o riescono a usare per esempio la stupidata di Google Earth, che è favolosa. Invece loro la massacrano, dicono che è una stronzata, che non va bene. Insomma, mi sembra che fanno gli snob su delle stronzate. E a parte i critici di professione, ci sono invece gli esperti dell'action che storcono il naso davanti a action ridanciani come Crank e Shoot 'em Up, definendoli ridicoli e stupidotti. E certo, ma scusa. Sono molto meglio di tutti quegli action che si prendono troppo sul serio, per esempio, parlavamo di Predators che si prende troppo troppo sul serio. E poi appunto loro omaggiano e no, che omaggiano, sono contentissimi del 50esimo Steven Seagal che esce uguale identico a tutti gli altri e poi vanno a criticare questi che sono prodotti nuovi e freschi. Insomma, contenti loro. Sì. Si becchino il loro Seagal per la 60esima volta. Infatti questo, come hai detto tu, se giudichi il film action utilizzando gli stessi parametri di quando giudichi un film impegnato, ovviamente il film action ne esce massacrato, ma perché è un genere diverso comunque dal cinema impegnato. No, ma il prossimo è una cosa. Il punto fondamentale è che il genere action, come l'horror o la fantascienza, quella pura, diciamo, sono tutti film di genere che non puoi valutarli come un film drammatico. Proprio perché, come quando parlavate della recitazione, che tu non puoi stare a vedere la recitazione, no, infatti, però ad esempio magari valuti il carisma. Ci sono dei parametri completamente diversi, non è che non esistono parametri per valutare un genere action, ovviamente poi sono anche abbastanza soggettivi, giustamente, però magari stai più a vedere il carisma di un attore che la bravura alla fine a recitare, stai più a vedere, non lo so, quanto è figo il nemico, là, di per esempio il Predator, quanto può essere, che a vedere, non lo so, alla fine la logica che ci sta dietro, semplicemente una valutazione diversa. Non è che deve, quindi alla fine si potrebbe addirittura creare una sorta di critica dell'action che va cercando di, cioè, cercando di analizzare questi punti, perché alla fine se, tu, se vedi è quello che vedi, cioè, è quello che vai a vedere in un film action, il carisma degli attori e queste altre cose che abbiamo detto anche durante la puntata oggi. No, ma il punto è questo, è che no, come si è detto, insomma, ci sono dei film che sono volutamente autoironici, volutamente ridanciani, che non si prendono troppo sul serio. È l'esempio, non lo so, di A Testa Alta, ma più marcati sono gli esempi di The Crank e di Shoot 'Em Up, come abbiamo già detto. E il fatto che alcuni critici, adesso mi è capitato casualmente Roger Ebert, promuovano film che si prendono terribilmente sul serio come 2012 e che risultano poi involontariamente comici, mentre invece bocciano novità come i film che abbiamo appena citato, proprio in quanto siano in quanto sono ridanciani. Questa, insomma, è una cosa abbastanza ridicola. Ad esempio, parlando di 2012, Ebert dice fa esattamente quello che promette. Innanzitutto non vedo dove ha visto la promessa riguardo il dito medio della russa nel climax del film, però vabbè, questa è una promessa che ha visto solo lui. Però perché allora quello che promette Crank non va bene, o quello che promette A Testa Alta non va bene? Addirittura A Testa Alta c'è gente che ha parlato di cinema dei reduci del Vietnam, non ha l'intensità di quel tipo di cinema, ma cioè che cazzo, a cosa serve parlare di questo cinema quando A Testa Alta non vuole essere un film di quel tipo, vuole essere un film sempliciotto con la morale alla Bud Spencer e Terence Hill, su una scazzottata, insomma, è proprio una, non lo so... Sembra che la gente debba darsi un tono quando giudica un film action. E questo lo vedo anche comunque nei vari forum, i vari critici della domenica, un po' come siamo noi, insomma. E si dicono, molti si dicono sdegnati addirittura di film come Crank, perché sono di cattivo gusto. Gente che dice, se questo è cinema... Sono dei palati film. Sì, e beh... La stessa cosa si può dire anche per la commedia, che i critici massacrano spesso la commedia solo perché è ridanciana, molto spesso, che sembra un paradosso, però lo fanno, sì. È una commedia stupida e ridicola, e certo, cosa deve essere una commedia? Però beh, è un altro discorso. Ecco, però la commedia ha un grande regista, ne ha tanti grandi registi, che riescono a vincere anche le diffidenze dei critici come Woody Allen, invece l'action non ce la fa proprio. Tu dicevi a parte McTiernan comunque non hanno mai riconosciuto il valore del cinema action. Questo non è proprio vero, perché comunque anche Cameron ha avuto il suo successo, Carpenter anche attraverso rivalutazioni a posteriori ha comunque avuto il suo discreto successo, ma in ogni caso riconoscono dei capolavori nel genere action, la critica in generale. Il fatto è questo, è che critichi l'action recente per la mancanza di contenuti. E allora spiegami, perché i capolavori dell'action che grandi contenuti avevano? E questa è la domanda che vorrei fare io alla maggior parte dei critici. Chiudiamo qui e non so, speriamo che vi sia piaciuta la puntata e passiamo ai saluti con le torte in faccia. Darkman, ciao ciao. Ciao ciao. E un saluto al Monco. I'll be back. eccoci giunti al mese di agosto e come ogni altra persona al mondo ci prendiamo una piccola pausa anche noi dei cineplegici. O forse no, insomma, dobbiamo ancora decidere se faremo qualcos'altro oppure riprenderemo direttamente la nostra attività del podcast con i primi di settembre, insomma. Abbiamo superato il nostro mese di vita, che era un po' il giro di boa che ci eravamo prefissati. Abbiamo quasi raggiunto i 100 fans su Facebook, un risultato che comunque ci fa molto piacere. Il numero di download continua a salire e vi ringraziamo per questo. Vorremmo avere anche un feedback da parte vostra, ci farebbe piacere che ci scriveste qualcosa, non solo su Facebook ma anche via email, insomma. Il desiderio di avere una rubrica della posta è sempre grande, ma ancora non abbiamo ricevuto alcun messaggio da parte vostra. Vi ricordo che l'indirizzo email è sempre il solito: cineplegici@gmail.com. Dove Gmail, penso lo sappiate tutti, però è bene sillabarlo, si scrive gmail.com. Con questo vi saluto, ci rivediamo, vi faremo sapere quando ci rivediamo perché ancora non lo sappiamo nemmeno noi, e spero che questa puntata vi sia piaciuta. Sul blog metteremo un sondaggio per chiedervi se preferite questa formula, ovvero la formula di scene eliminate, oppure quella della puntata regolare Cineplegici episodio 1 o 2, quelli che abbiamo fatto, insomma, in modo tale che possiamo misurare il vostro indice di gradimento. Questo vi saluto, buone vacanze a tutti quanti, divertitevi e ogni tanto vedetevi anche un buon film. Ciao ciao!